9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 21 di gennaio. Innanzitutto oggi Sant'Agnese, due comunicazioni che mi consentirete. La prima, non so quanti di voi abbiano visto la luna bassissima all'orizzonte stamattina, era veramente fantastica e a noi è venuta in mente perché io purtroppo sono ai microfoni, purtroppo sono molto lieto di esserlo, ma non posso esserlo dove con amici avrei dovuto essere, cioè al funerale della mamma di una cara amica, si chiama Clara, siamo tutti con te e ci sono anch'io, e la luna è la luna che noi avremo sempre in testa per le mamme. Quando le mamme se ne vanno, secondo me i figli devono, tutti i figli del mondo devono ringraziare sempre, io lo dico per la mia che mi ha dato molti schiaffi ma continui a darmeli per tutta la vita. Perdonatemi questa piccola parentesi lunare, ma dalla luna eccoci tornare sulla terra e su uno dei noti problemi che dopo la morte sono più certi sulla vita in terra, e cioè le tasse, come dice la famosa dichiarazione. Ieri c'è stata una ricerca che è stata presentata, una ricerca del Censis e insieme al Censis anche dei dottori commercialisti, e quindi Giuseppe Roma del Censis e Claudio Siciliotti hanno illustrato le risultanze di questa indagine, che è un'indagine un po' a sorpresa a dirvi la verità. Io lo dico subito, poi gli ospiti sentiremo cosa ne pensano. È un po' a sorpresa perché come sempre le indagini dipendono molto dalle domande come vengono formulate, ma io adesso vi sintetizzo, in attesa di collegarci con gli ospiti che ancora non ci sono, io vi sintetizzo le risposte più rilevanti che sono state illustrate alla conferenza stampa di ieri. Allora, innanzitutto definizione che gli italiani danno del fisco, poche sorprese, perché secondo il 36,2% è ingiusto, secondo il 25,5% è inefficiente, secondo il 23,7% è esoso, quindi come vedete le percentuali sono quelle di una netta ripulsa del sistema fiscale italiano, è efficiente solo per il 9,9%, solidale solo per il 4,7%, quindi mi pare questo non mi sorprende. Altra questione, i principali problemi del fisco secondo gli italiani. Allora, qui innanzitutto, prima sorpresina, perché chi la pensa come me, e cioè che il primo problema del fisco italiano sia l'eccessivo livello di tassazione, è in netta minoranza, perché invece vince la risposta l'alto livello di evasione fiscale, che ottiene il 44,4% delle risposte. Chi invece è convinto che l'eccessivo livello di tassazione sia un problema è la metà, il 22%, quindi sono minoranza secca. Poi viene la complessità e farraginosità del sistema, 17,7%, l'inefficienza e incompetenza degli uffici, 9%, il basso livello di tutela dei contribuenti, 6,9%. Tenete conto che questa ultima risposta, il basso livello di tutela dei contribuenti, ci dà l'idea, secondo me, sono molto provocatorio di quanto ci sentiamo sudditi e poco cittadini, perché questo arriva in fondo all'ordine dei problemi, il basso livello di tutela, cioè il fatto che ci sia un contenzioso ispirato al contrario dello Stato di diritto, cioè all'inversione dell'onere della prova e al fatto che lo Stato ha sempre ragione, per essere chiari. Comunque, qui c'è una prima sorpresa. L'alto livello di evasione fiscale è, a giudizio della stragrande maggioranza relativa degli italiani, il problema numero uno. E quindi mettiamocelo da parte. Il giudizio sull'evasione, come è cambiato negli anni 1905-2010? È cambiato naturalmente innalzandosi la percentuale di coloro che considerano gravissima e grave l'evasione fiscale, e è aumentato di molti punti coloro che ritengono l'evasione il primo problema del nostro paese. E perché la sensazione degli italiani è che più passano gli anni, più crescono coloro che riescono a sottrarsi ai propri doveri contribuente. La percentuale, se disaggreghiamo geograficamente, di italiani che considerano l'evasione il problema gravissimo addirittura, è più elevata nel centro, 55,4%, nel nord-ovest il 52%, viene poi il nord-est il 49,5% e il sud e le isole al 46,2%. Allora, andiamo a vedere qual è il giudizio degli italiani sul livello della pressione fiscale per area geografica. Prima, complessivamente, quanti la considerano alto se comparato al livello dei servizi erogati? Il 58%. Alto anche se il livello dei servizi erogati fosse migliore? Il 23%. Adeguato rispetto al livello dei servizi erogati? L'11%. Basso considerato il livello dei servizi erogati? Il 7,7%. Quindi abbiamo un 58% che lo considera alto anche se comparato al livello dei servizi erogati. Anche qui il giudizio inizio c'è una pressione alta e più elevato nel nord-ovest, poi nel centro che si sa 60,9, poi nel nord-est 53,6%, poi il sud e le isole che sta al 56,7%, anzi come vedete 56,7% del sud delle isole che si lamenta dell'alto livello delle tasse e più sud e nord-est, quindi ci sono comunque degli elementi su cui riflettere che un pochino capovolgono le opinioni comuni del nord-est come centro, diciamo così, della resistenza fiscale nel nostro paese. Arriviamo a un'altra domanda e qui io sono molto critico perché è stato chiesto agli italiani: ma voi preferireste abbassare il livello complessivo delle tasse diminuendo il livello di copertura pubblica dei servizi oppure aumentare la quantità e la qualità dei servizi pubblici alzando il livello di tassazione? Io a questa domanda sono radicalmente contrario perché è una domanda impostata da statalisti, lo dico brutalmente, faccio polemica prima di passare la parola agli ospiti e non mi sorprende che formulata così la domanda, la risposta degli italiani veda nettamente in testa coloro che si dicono disposti ad aumentare le tasse in cambio di migliore quantità e qualità dei servizi rispetto a coloro che invece dichiarano di voler abbassare il livello complessivo e abbassare il livello di servizi. Il problema è che chiesta così, l'alternativa è, sembra profilare che chiunque come me dice che il livello di più crescita si ottiene solo con molta meno spesa pubblica e molta meno pressione fiscale, riallocando la spesa pubblica laddove serve con più efficienza di costi standard, la leva dal tavolo e fa sembrare che invece il livello dei servizi e la qualità dei servizi pubblici dipenda solo dalla pressione fiscale, che è falso, perché sul totale delle entrate dello Stato alla qualità e al welfare non va assolutamente la parte prioritaria della spesa pubblica italiana e c'è questo piccolo particolare. Comunque questo è un altro terreno su cui interrogarci, perché effettivamente la percentuale di italiani maggioritaria che sarebbero disposti a più pressione fiscale e più spesa pubblica, riflessione, è naturalmente molto maggiore quanto più cresce l'età, perché il livello di statalismo securitario, per così dire, cresce quanto più ci si va alla fascia 55-70 anni. L'esatto opposto avviene per i giovani, naturalmente, sulle cui spalle ricadrà questa pressione fiscale e questo deficit del debito pubblico così elevato. Però altro punto che vi sottopongo. Infine, le imposte più date dagli italiani quali sono? Sorpresa, il canone RAI 47,3%, il bollo auto il 14,5%, poi c'è l'ICI 12,7% che non c'è più per la prima casa, peraltro, poi l'imposta sulla nettezza urbana 12,1%, pensate che l'IRPAF c'è solo l'11,6%, l'IRAP neanche citato, l'IRES neanche. Beh, non lo so se veramente è un quadro su cui essere soddisfatti. Ora ho parlato fin troppo, nel frattempo sono arrivati gli ospiti, poi c'è tutta una parte molto interessante che è quella, diciamo, che sta più a cuore e di cui si è accertata con maggior chiarezza l'ordine dei commercialisti, che sono i diversi aspetti che più preoccupano e vengono giudicati più negativamente dagli italiani nel disbrigo degli adempimenti fiscali, magari li vediamo più avanti. C'è un giudizio che purtroppo testimonia che lo statuto del contribuente non lo conosce nessuno, 55,4 non ne ha mai sentito parlare, quindi autoconsapevolezza dei diritti del contribuente molto bassa. E dopodiché c'è un federalismo problema vero del paese, ma no, neanche per idea, dice una percentuale molto elevata. Se poi si chiede agli italiani qual è l'intervento più urgente da fare sulle tasse, naturalmente aumentare i controlli e combattere l'evasione, il 51% rispetto al quale abbassare il livello generale dell'imposizione fiscale è solo al 23,4%. Insomma, se ha ragione questo sondaggio, Giannino ha tutto sbagliato, perché gli italiani vogliono più tasse, perché li identificano con elevata qualità dei servizi pubblici e vogliono in galera gli evasori. Io ho un punto di vista molto diverso. Per questo oggi la puntata la facciamo parlandone apertamente. Abbiamo innanzitutto con noi Giuseppe Roma, che è il direttore generale del Censis, che saluto. Buongiorno Giuseppe Roma. Buongiorno. E poi Carlo Lottieri, che mi dà una mano in quanto è docente dell'Università dello Stato Università di Siena e cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, e più avanti avremo anche il professor Raffaele Lupi, che insegna diritto tributario, giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata, così equilibreremo il punto di vista liberista di Lottieri. Comunque buongiorno Lottieri. Buongiorno. Allora, Roma, ha sentito che io sono stato un po' caustico nella presentazione dei criteri delle domande, però voglio dire, le mie sono obiezioni di una minoranza, invece il blocco di argomenti che sta in questa ricerca è di quelli che fa riflettere, perché presenta gli italiani come, diciamo, molto moderati, equilibrati, poco speranzosi in un miglioramento sostanziale sulle aliquote, ma dice almeno dateci uno Stato che funziona. Sì, secondo me anche quello che poi lei diceva, rilevava su una domanda che noi peraltro facciamo da almeno 15 anni, non so se ha potuto vedere anche il confronto con gli altri anni. Nel 2010 si inverte quel rapporto fra chi punta sulla diminuzione delle tasse e chi punta sulla qualità dei servizi, e questo secondo me è una grande innovazione, ma non tanto nel senso che la gente vuole più tasse, perché non è il senso della domanda non è quello. Posso chiederle secondo voi, nei vostri criteri di, proprio nell'analizzare questa trasformazione, per cui c'è un passaggio, diventa più rilevante e molto più corposo la parte degli italiani che dice no, rispetto ad abbassare le aliquote delle tasse dateci il meglio, secondo lei quanto conta la delusione per le promesse se non mantenute, se ci sono strumenti nella vostra indagine che vi consentono di rilevare, o altrimenti di che cosa è indice questa? Questo è indice di una cosa molto precisa, della fregatura, la dico in termini forse volgari, nel senso che gli italiani hanno visto mantenere il livello della tassazione più o meno uguale, perché mi pare che negli ultimi anni non si sia ridotto, ma sono in presenza negli ultimi anni, per ragioni diciamo fiscali, ma per ragioni di equilibrio dei conti pubblici, ha una riduzione dei servizi. Ecco, a questo punto non c'è più questa, diciamo, quella domanda che negli anni passati poteva essere una speranza. Ok, abbassatemi le tasse, poi i servizi me la vedo io, fate più privatizzazioni, sarò più previdente, assicurazioni. In questo momento è che cosa vuol dire? Che tu mi fai pagare le stesse tasse e mi dai meno servizi. Allora a questo punto lo sai cosa ti chiedo? Perché questo è il punto, secondo me, più bello di questa idea. Tradotto come lei non può dirlo, in questi anni promesse di abbassamento non mantenute, e soprattutto di fronte al rigore pubblico da fare, dove tagli. Non è sulle pensioni eccetera, ti taglio sui servizi a te cittadino. Certo, anche perché mi permetto di correggerla, la gran parte della spesa pubblica è spesa sociale, perché le pensioni sono spesa sociale, perché la sanità è spesa sociale, sappiamo che si arriva quasi ai 2/3 della spesa pubblica in queste due aree, che in un paese dove abbiamo quasi 1/4 della popolazione anziana è evidente che preoccupa. È chiaro che gli anziani dicono la mia tassazione non me la possono aumentare perché c'ho una pensione, quella è difficile che possa aumentare la tassazione, ma se mi togli i servizi essenziali, in particolare la sanità, se incomincia a tagliare, io sono preoccupato e dico no, voglio i servizi. Ma questo discorso proprio a un liberista come lei non la deve preoccupare, perché una grande perché una grande innovazione è un passaggio, direi, da un modo di guardare le tasse molto romano, ma non solo perché Roma è la capitale, ma anche perché c'è il diritto romano, a un modo molto più anglosassone, perché noi siamo abituati e molto spesso il moralismo che si fa sull'evasione fiscale riguarda il rapporto con le regole. Ci sono le leggi che dicono che bisogna pagare quelle tasse, tu sei un cittadino probo, sei un cittadino civicamente inserito in una comunità, devi pagare. Ma il Parlamento ha messo delle tasse assurde, ma è complicatissimo, non me ne importa nulla, tu lo devi fare. Adesso spendi 3.500 euro, ti devi far registrare. È un po' come quando uno va dal dottore e la prima cosa che gli fanno fare è un pezzo di carta in cui si scrive la privacy, eccetera, eccetera. Cioè il cittadino oggi che cosa invece dice? Io voglio che gli italiani facciano il loro dovere, che le tasse è una cosa che devono pagare tutti, perché la prima valutazione che si dà è quella di ingiustizia fiscale, cioè che nell'effettività della tassazione non c'è il rispetto di quell'articolo 53 che dice che la tassazione deve essere progressiva, perché ci sono tanti che hanno molte risorse non pagano, e quindi il cittadino capisce che c'è un'efficienza dello Stato che non interessa, non è un fatto morale, che produce una pressione fiscale notevole per il fatto che non c'è una progressività effettiva, è solo per chi riesce a beccare, è solo per quelli che le pagano le tasse. Il problema è che io sono preoccupato invece del fatto che questo nuovo consenso che va allo Stato, per le due ragioni che ha detto, però io le voglio finire il ragionamento, ma io sono proprietario, non imprenditore. Nelle mani di politici italiani significherà ancora più spese e più tasse, perché quando lei mi dice il più della spesa pubblica però io per questo volevo finire, non è così, poi vediamo cosa c'è dietro. Io allora voglio che gli italiani facciano il loro dovere, ma lo Stato deve fare il suo dovere, perché lo Stato oggi esercita solo il diritto di collazionare tasse, ed è il principio no taxation without representation, che è il principio anglosassone. Cioè mentre noi oggi parliamo delle tasse come un fatto asettico, bisogna pagarle e ci sono gli evasori, chi se ne importa? Io voglio sapere, io faccio il mio dovere, ma tu Stato lo fai il tuo dovere spendendo in maniera efficiente, tagliando gli sprechi. Lo sa perché il canone RAI è il più odiato? Non è per quello, perché la RAI non è servizio pubblico, ma perché la RAI è un'azienda che spreca. Allora tu prendi i miei soldi per fare che cosa? È un'azienda piena di scandali. E il fatto che alla fine tutti pensano farà la fine dell'Alitalia, dovrà essere salvata, è questo che non piace ai cittadini. Quindi questa indagine non dice più statalismo, ma questa indagine è proprio la base del federalismo, cioè più efficienza dello Stato. Io non voglio essere un contribuente che devo pagare e lo Stato fa le regole che vuole, neanche mi consulta, addirittura non le capisco, per cui se non sono il commercialista non so neanche che tasse pago e devo pagare, mentre lo Stato non ha nessun diritto, cioè non ha nessun dovere, non esercita nessun dovere. Questo è il punto, non c'è più statalismo nella mia interpretazione, visto che questi sono dati, i dati sono quelli. Ma come lo interpreto io? Non lo interpreto come una richiesta di maggiore protezione dello Stato attraverso e paghino le imposte chi non le va. No, io voglio uno scambio più anglosassone, voglio sapere cosa ci fai delle mie, perché ci sono molte tasse sommerse, ma tu mi fai pagare il bollino blu per dimostrare che la mia automobile non inquina, sono 70 euro che magari non vanno manco allo Stato, andranno al meccanico, ma è una tassa occulta, ma tu mi fai pagare, mi raddoppi le rette nelle mezze scolastiche, è una tassa occulta, mi fai pagare il parcheggio su strada ma non fai parcheggi, per cui non trovo manco il posto per la macchina. Allora è questo che viene denunciato, non è che allora guarda, io capisco, però nella mia lettura dell'Italia vedere innanzitutto l'imposta più ingiusta, il canone RAI, neanche citato l'IRAP, vuol dire che gli italiani... No, attenzione, questo vuol dire... è un fatto tecnico. Noi stiamo parlando di popolazione. Ho capito. L'IRAP e l'IRES... D'accordo, riguardano le persone giuridiche. Ma la domanda... ma avete sbagliato, perché questa è l'impostazione che non sono d'accordo. Perché all'imposta più sbagliata... Roma, mi fa parlare un secondo. Roma, se io gli chiedo la tassa più ingiusta, gli devo chiedere sul totale dell'ordinamento italiano lui quale ritiene che sia quella più distorsiva, io gli devo chiedere anche l'IRAP e l'IRES, a prescindere che la paghi o meno, perché può essere che così capisco quanti italiani hanno chiaro in mente che l'IRAP c'è solo in Italia e che l'effetto ammazza lavoro e occupazione è micidiale, cioè è sommamente più ingiusta persino di quella tassa di possesso totalmente iniqua che è il canone RAI, perché l'effetto che esercita sul totale dell'economia italiana di crescita in meno è incomparabilmente maggiore. Però attenzione, io non voglio criticare voi, dico semplicemente che la lettura diversa che diamo noi minoritari liberisti è quella di una opinione degli italiani che è in transizione, come rilevato dalle vostre indagini annuali, verso una nuova richiesta di securitizzazione statale. Questo è il dato di fatto, che la mia lettura è l'effetto di 16 anni di promesse non mantenute sull'abbassamento delle aliquote, ed è a ragione in questo, secondo me, il criterio di lettura del Censis, del fatto che i cittadini vedono che di anno in anno poi dove si fa il rigore, si fanno i tagli ai comuni, i tagli ai trasferimenti pubblici, che diventano di volta in volta mai tassi alle piante organiche ai dipendenti, e dall'inizio dell'anno che lo facciamo, che denunciare le regioni che assumono i precari a tempo determinato gonfiando ulteriormente gli organici, diventa semplicemente naturalmente il taglio dei servizi offerti ai contribuenti, così contribuenti si arrabbiano, protestano contro i trasferimenti dello Stato alle periferie. E questo gioco, temo di dover dire, che porta inizialmente a più spesa pubblica e aumento dell'imposizione fiscale. Può essere che io mi sbagli, ma nel vedere che il giudizio scende di anno in anno sul fatto che il problema più grave sia il livello dell'imposizione e sale invece quello del dire la lotta all'evasione fiscale, è un'abilità, è l'abilità della linea di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che gettando in pasto ogni paio di mesi liste di contribuenti, presunti evasori, siamo arrivati al punto che basta avere un conto all'estero per essere indicati all'ignominia pubblica come presunti evasori. Un conto all'estero, cioè la libertà dei capitali, viene oramai ridotta nel nostro paese dall'Agenzia delle Entrate a un'indicazione di presunzione di reato, per cui ti devi difendere tu verso lo Stato, e questo determina un aumento del consenso e della divisione tra gli italiani, che pensano sempre che il vero problema sia che quello a fianco non paga le tasse, dimenticandoci che quando si arriva a un livello di pressione fiscale 43,3, che se ci leviamo il 17% dell'Istat in nero diventa 52%, così elevato, il vero problema è quello, perché la mancata crescita viene da quello, perché l'eccesso di intermediazione pubblica in aree del paese molto più elevata che altrove è quella la radice del fatto che ci sia un ordinamento concorrente più efficace di quello dello Stato, cioè i poteri criminali, e così via. Naturalmente il mio è un criterio minoritario di leggere questi dati del Censis, ma abbiamo voluto parlarne oggi proprio perché una cosa è sicura: il Censis ci dà una grande mano, accende un grande faro nel fatto che gli italiani non è vero che non reagiscano a 16 anni di promesse non mantenute. Reagiscono e come? E dicono: beh, vabbè, se la volete piantare di fare promesse non mantenute, noi intanto però vi diciamo: rompeteci meno le scatole e dateci qualche cosa di più efficiente. In questo, secondo me, il criterio che c'è lo Stato Giuseppe Roma è assolutamente centrale. Ecco gli effetti della lunga stagione di prese per i fondelli sulle tasse. Allora, eccoci tornati in studio in questo 21 marzo, in cui stiamo vedendo alcuni dei punti di fondo di questa indagine illustrata ieri dal Censis e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti. Abbiamo un po' incrociato le lame, perché insomma, di fronte al dato per il quale cresce in maniera molto apprezzabile tra gli italiani il giudizio per cui il problema più grave è l'evasione fiscale e non la diminuzione dell'aliquota del livello di imposizione, da una parte, e dall'altra di fronte all'alternativa disposti a più tassazione per più e migliori servizi, oppure abbattere la tassazione, ma questa è stata la richiesta, con meno servizi, gli italiani naturalmente si orientano molto più sulla prima opinione. Mia preoccupazione, perché da liberista vedo gli effetti dei 16 anni di presa per i fondelli sulle tasse, Roma a nome del Censis, che dice: no, attenzione, questo sondaggio va letto in maniera più equilibrata, perché è la richiesta di migliori servizi da parte dello Stato, perché la gente dice: non, voi non potete tagliarci sui servizi, io sono anche disposto e dico lotta all'evasione, tutti devono fare il loro dovere, però lo Stato a quel punto deve impegnarsi in una forte qualificazione dei servizi. Roma, ora, oggi un'ultima battuta, perché poi ci deve lasciare. Ma io penso che questa interpretazione mi pare sia anche coerente con una logica in cui si possa poi diminuire la pressione fiscale. Cioè, è evidente, noi siamo un paese a media pressione fiscale, a parte il sommerso, però siamo anche un paese dove purtroppo questa crisi sta provocando un incremento di economia in nero, e quindi c'è anche questa sensazione che, mentre una volta, diciamocelo francamente, l'evasione fiscale era una forma di guerriglia contro l'alta tassazione e che in fin dei conti anche il nero poi produceva nel paese economia, oggi si capisce che i tanti dentisti che hanno un bel gruzzoletto in nero, quel nero non lo metto neanche in circolo, quindi un'evasione fiscale che una volta era un circuito alternativo molto italiano, che ha fatto anche andare avanti l'Italia, diciamolo francamente, scoprimmo noi il sommerso nel 74 come, non dico una cosa virtuosa, ma certamente una cosa dinamica. Oggi è tesaurizzazione di risorse, certo c'è anche il piccolo artigiano che magari c'è un po' in nero perché sennò non sopravviverebbe, ma comunque è come dire la svalutazione competitiva degli anni che furono, non è una cosa attiva o una rivolta fiscale tale per la quale dici comunque una reattività del paese, no, sono ceti che tesaurizzano e non mettono in circolo, che magari hanno tanto patrimonio immobiliare, ma questo è affitti in nero che non vengono poi rimessi in una domanda effettiva, oppure una forma di competizione un po' arretrata. Bene, io ringrazio, saluto Roma. Io temo, devo dire la verità, che di fronte a una prospettiva che mi pare di capire sarà quella di aumento ulteriore della pressione fiscale, magari anche forme di imposizione patrimoniale, perché stanno nel dibattito ed è chiaro che chi le propone non pensa a una patrimoniale come cuscinetto intermedio per l'adozione di una riforma di abbassamento delle aliquote per renderla sostenibile di fronte ai mercati, ma pensa invece di aggiungere l'attuale batteria del prelievo anche una nuova imposta, quella scusa che sarà più progressiva di tipo patrimoniale. Io penso che Roma, quando ci dice che andiamo verso una tesaurizzazione in nero, abbia profondamente ragione, nel senso che io posso denunciare che per l'attività che faccio, io gestisco anche portafogli, io vedo che un mucchio di gente ha ripreso ad andare all'estero, è finita da molti mesi l'effetto dello scudo fiscale adottato con la bassa aliquota per la regolarizzazione e rimpatrio da questo governo, la gente sta di nuovo portando fuori i soldi e la prospettiva è quella che questi soldi rimangano tesaurizzati fuori, perché si ha di nuovo paura di quello che può avvenire nel futuro. Non lo dico collegato a un giudizio politico, dico che poi la gente che ha i soldi nel nostro paese molto probabilmente non è quella che risponde a questo sondaggio in questo modo, diciamo che sta molto attenta a delle antenne abituate da decenni di fronte anche al minimo segnale che vede una ripresa di pressione e nuove forme di imposizione, e vedo che l'interpretazione da parte di molti dei miei clienti che stanno in quella fascia è questa: io non mi fido, qui ci vogliono stangare anche con la patrimoniale. Però intanto, se ha ragione Roma o abbastanza torto io, sentiamo come la pensano adesso i due nuovi ospiti: Raffaello Lupi, che si è aggiunto, che insegna diritto tributario a giurisprudenza a Tor Vergata a Roma, e Carlo Ottieri. Lupi, che dice di questo sondaggio del Censis? Ne è contento perché gli italiani, malgrado tutto, respingono in maniera crescente forse le illusioni di riforma fiscale? Qual è la sua interpretazione? Ma mi sembra che sono le cose che si potevano dire anche 20 anni fa. Si rendono conto che c'è un grosso problema, non di lotta all'evasione, che è un'espressione che non si deve usare più se vogliamo trovare la ricchezza nascosta. Bisogna chiedere le imposte. Cioè c'è mezza Italia che non paga perché in realtà nessuno gliele chiede. Non si possono chiedere le imposte con la gazzetta ufficiale a uno che ha 40 dipendenti e fa attività logistica, ripara i camion, perché quello non le paga. Con la gazzetta ufficiale le imposte si richiedono alle aziende. Quello che ovviamente l'opinione pubblica non ha capito, perché nessuno gliel'ha spiegato, è che noi abbiamo una tassazione attraverso le aziende. Dove le aziende non ci sono, oppure dove i loro proprietari possono mentire in parte, lì c'è il problema. E i 120 miliardi sono meno di quelli reali, perché se vediamo i 120 miliardi di imposte, probabilmente se ripercorriamo il criterio di stima, che è basato sul lavoro non remunerato, sono anche pochi rispetto al reale. Me l'ha spiegato bene anche Alessandro Santoro, che ha fatto quel libro del mulino sull'evasione. Cioè è calcolato sulle unità di lavoro insufficientemente remunerate, ma quello che dichiara 40.000 euro e ne guadagna davvero 150 o 200 sfugge a quel criterio di stima. Quando dice non è con la gazzetta ufficiale, che perché non è con sull'impresa sostituto d'imposta che in quel caso si ottiene il versamento del giusto, bisogna fare in un altro modo, dice che a dormire, tra virgolette, se mi passa l'espressione un po' impropria, chi è in particolare? L'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza per i controlli, chi, come? No, è l'opinione pubblica qualificata, cioè c'è un buco nero che non fa capire al paese come sta funzionando o non sta funzionando la cosa. L'Agenzia delle Entrate c'ha 35.000 dipendenti, le posizioni teoricamente da controllare sono 4 milioni. L'Agenzia delle Entrate ai suoi vertici ha capito benissimo che bisogna ricominciare a valutare e che il problema è la richiesta delle imposte sulla ricchezza che non viene dichiarata. Se noi spacchettiamo le bellissime statistiche del recupero dell'evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate, vediamo perennemente in crescita. Come? Perennemente in crescita. No, le statistiche sono perennemente in crescita e probabilmente è in crescita anche la ricchezza nascosta, come dimostra anche il sondaggio, cioè esatto, del Censis. La gente avverte che nonostante tutto l'evasione sta aumentando, perché il grosso di quelle statistiche dell'Agenzia delle Entrate provengono da accertamenti di evasione interpretativa su ricchezza palese dei grossi contribuenti delle aziende e non sulle medie e sugli autonomi. Ok, quindi insomma c'è un grande problema che è di informazione, e su questo siamo d'accordo, perché anche secondo me le risposte al sondaggio Censis testimoniano che sull'informazione, su come davvero funziona, come arrivano i soldi, la gente non lo sa. Su questo siamo perfettamente d'accordo, e questo è un elemento importante, perché innanzitutto per chi fa il mio, nostro mestiere eccetera, vuol dire che non siamo capaci di farlo, e diciamo le cose come stanno. Secondo me il professor su questo ha straordinariamente ragione. Lottieri, dal suo punto di vista questo sondaggio invece a che cosa l'ha fatta riflettere? Ma mi ha fatto pensare che gli ideologi del principe hanno lavorato molto bene, in quanto è chiaro che il combinato tra tassazione e spesa pubblica rappresenta un'analisi realistica, diciamo un'analisi molto schietta, la versione moderna della spartizione del bottino. E contro ogni logica la sottrazione forzosa del denaro, delle risorse da parte dei politicamente più forti nei riguardi dei politicamente più deboli appare legittima e doverosa sempre più, mentre la resistenza di fronte a tutto questo nella neolingua orwelliana del nostro tempo è anzi identificata sempre con il furto. In questa situazione credo che davvero la società appaia sempre più debole e il potere sempre più forte. Per fortuna, come diceva lei, la gente va all'estero, ecco, questo è un dato. La vicenda Marchionne in realtà archivia molte di questi dibattiti. Marchionne l'ha detto, guardate che se le cose qui non cambiano, io posso benissimo investire in Canada. Molti lo stanno già facendo. Voglio dire, in fondo siamo ancora in un vecchio mondo, prigionieri, come dire, di una società pre-globalizzazione. Si pensa che tutti gli italiani siano chiusi in un recinto e qualcuno possa torchiarli a piacere. Non è così, è uno schema saltato, siamo nel mondo di internet, di Ryanair. Se l'Italia va avanti in questa maniera, continuando a confondere la tassazione con il pagamento di servizi liberamente scelti, cosa che non è. La tassazione è imposizione, cioè alcune persone sottraggono risorse ad altre persone, questa è la tassazione. Anche identificare la spesa pubblica con servizi sociali non è vero, perché questi servizi sono divisi in maniera del tutto iniqua. È chiaro che il meccanismo delle, come dire, previdenziale, ad esempio, ha avvantaggiato in questi anni persone che hanno fatto 15 anni, 6 mesi e un giorno, voglio dire, questo è il sistema. Quindi politicamente più forti si avvantaggiano la spesa pubblica e politicamente più deboli, come dire, ci perdono. Non è un caso che, se lei guarda nei dettagli i dati di questa ricerca, l'unico gruppo, diciamo, come formazione scolastica, come dire, che è maggioritariamente favorevole ad abbassare il livello delle tasse, quello degli ignoranti. Esattamente, cioè, tanto più che cresce il titolo, tanto più si è a favore di Stato e tasse. Esatto, perché quanto più si, come dire, si mette le mani nella mangiatoia, sono, come dire, quelli che non hanno nessun titolo di studio o licenza elementare che dicono: per favore abbassate il livello delle tasse, per favore diminuite il livello di copertura dei servizi. E adesso, perché con questa interpretazione, il professor Rottieri, Giannino va ancora nei guai, perché diventa la testa di un partito di illetterati ignoranti che sono gli unici che a quel punto vogliono meno Stato e meno tasse. Naturalmente il professor Rottieri vi ha fatto notare che questo lo dice l'indagine, noi speriamo che non sia così, però attenzione, perché questo dato di questa ricerca ci dice molto dell'humus circostante. E in ogni caso la riflessione del professor Lupi è una riflessione, secondo me, molto corretta, che spiega sia gli italiani, perché rispondono così nei sondaggi, ma che spiega anche l'iniquità di fondo poi del nostro sistema fiscale rispetto all'articolo 53 della Costituzione. Ora abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio per questa parte finale sulla ricerca illustrata ieri dal Censis e dall'Ordine dei Lettori Commercialisti, con qualche risposta da parte degli italiani che ci ha lasciato molto sorpresi: più tasse e più servizi, il problema più grave è l'evasione, non certo l'abbassamento delle aliquote. Sentiamo qualche rapida telefonata, poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Rodolfo, che ci chiama da Roma. Prego, Rodolfo. Buongiorno dottor Giannino, io non mi stupisco delle risposte degli italiani, quanto sono profondamente stupito dalle domande, dalle risposte invece dei politici e degli economisti, che sembra che o abbiano una profonda ipocrisia oppure vivano su Marte. Escludendo questa seconda ipotesi, non capisco come non ci si renda conto, io sono un piccolo imprenditore e mia moglie è una libera professionista, come non ci si renda conto che oggi, se tutti i soggetti fisici e giuridici da oggi pagassero tutte le tasse, l'80% delle aziende e dei professionisti fallirebbero, chiuderebbero bottega, perché il livello della tassazione è assolutamente insopportabile per come è impostata l'economia oggi in Italia, di queste categorie che le ho appena citato. Il mio amico Vincenzo Visco, non ai microfoni, ma cinicamente a bassa voce, direbbe: bene, ne aumenterebbe sicuramente la produttività dell'Italia abbattendo il livello di disintermediazione di microimprese inefficienti. Lo sto dicendo naturalmente in termini paradossali, io gliel'ho sentito dire anni fa, era un argomento paradossale, ma è per dire che non è che non sia presente, tra virgolette, all'altra parte questo tipo di effetto che si determinerebbe nella società italiana. Ma del resto c'è chi pensa che nella società italiana non sia casuale che ci sia questa anomalia del numero molto elevato, molto più elevato che negli altri paesi avanzati, di lavoro autonomo, professionisti, intermediazione di questo tipo, e che sia un'esternalità tutto sommato negativa sui costi di transazione della nostra economia. Se possibile da combattere, ripeto, non voglio mettere in bocca ad altri che a me queste opinioni, ma questo tipo di opinioni c'è stato, perché ne parlavamo tante volte, lo ricordo, non solo il professor Visentini, tanti ormai anni fa, quando abbozzammo un primo bilancio della riforma fiscale del 74 su ciò che andava, che è corretto, cioè una riforma che faceva del sostituto d'imposta il primo pilastro, per così dire, nell'idea che il lavoro dipendente fosse in crescita, quando invece poi era il contrario nell'andamento effettivo dell'economia del nostro paese. Sentiamo ancora Emilio da Verona. Prego, Emilio. Sì, buongiorno Giannino. Volevo dire che le risultanze di questa indagine sono assolutamente faziose, nel senso che sono state poste, come lei diceva, delle domande che presuppongono una risposta abbastanza facile. Oggi da piccolo imprenditore posso dire che il fisco è il peggior nemico in questa crisi per chi paga le tasse. Chi si trova in difficoltà spesso lo fa perché le tasse le ha pagate davvero. Il livello dei servizi è assolutamente indifferente, perché tanto comunque l'importante è pagare. L'Italia è un paese che finora ha investito soltanto per fare le vacanze, non certo in opere strutturali che oggi potremmo trovarci. E di fatto quindi è chiaro che la tassazione, l'evasione fiscale viene messa in bocca a tutti come se fosse il vero problema. Secondo me gli italiani ci cascano, però Giuseppe Roma mi tirerebbe le orecchie, e non solo Giuseppe Roma, immagino anche il professor Lupi. Sentiamo Aldo da Venezia. Sì, io sono convinto che una delle ragioni, non la sola, dell'evasione fiscale massiccia che c'è in Italia è l'enorme peso della tassazione sull'impresa e sulle attività economiche. Questo anche sulla base della mia esperienza scandinava, perché ho lavorato anche in Scandinavia. Per esempio la Svezia aveva fino a 4-5 anni fa un'aliquota massima sulle imprese del 28%. Esatto. Ecco, se questo fatto lo si paragona con la struttura economica dell'Italia, dove prevale la piccola media impresa e soprattutto una massa della cosiddetta very small enterprise, sulla quale il tax rate reale dell'IRIS arriva al 65% appunto, rispetto ai grandi gruppi appunto, che magari pagano 20. È un assurdo. Quindi l'imprenditore piccolo soprattutto non vive se non evade il fisco. Grazie ad Aldo. È questa però paradossale realtà. Due riflessioni al volo, ricominciamo con il professor Lupi. Ma questa fotografia che esce quando si aprono i nostri microfoni è una fotografia falsa, artatamente prodotta da noi, secondo lei, professor Lupi? Per cui molti dicono: guardate che qua tra piccoli professionisti se paghiamo moriamo. Ma probabilmente i nostri ascoltatori sono più autonomi, più artigiani, professionisti. Quelli che hanno risposto al sondaggio sono meglio distribuiti, quindi siccome noi abbiamo il 65% di lavoratori dipendenti, immaginiamo senza un secondo lavoro, chiaramente alla domanda più tasse, più servizi, meno tasse, meno servizi rispondono come non piaceva a noi. Chiarissimo. Ma perché viene istintivo. Chiarissimo. Questo però dell'eterna divisione degli italiani è un po', torno al professor Lottieri, forse uno dei punti su cui si appoggia la leva del principe. Cioè la divisione è quella che poi crea consenso alla campagna per cui la spesa cresce, o no? Certo, tenga anche presente una cosa elementare: sono un dipendente pubblico, no? Io non pago tasse, io ricevo le tasse, cioè formalmente pago tasse, nel senso che voglio dire, ovviamente ci sono delle trattenute, ma in realtà è tutta una cosa formale. Sostanzialmente io ricevo le tasse pagate dal settore privato. È chiaro che già solo quest'area dei dipendenti pubblici non può che essere pregiudizialmente favorevole alla tassazione, perché vive di tassazione. E va bene, e siete 4 milioni, ma qua voglio dire, quello che si evidenzia da questo sondaggio è che le percentuali favorevoli a sempre in cambio dei migliori servizi eccetera, a un aumento delle tasse, e comunque che ritengono che oramai il livello dell'imposizione come grande problema poco più del 20%, diciamo, è un sondaggio che se lo proiettassimo come criterio di interpretazione destra a sinistra di un voto, qui significa che la famosa coalizione alla base del popolare del centrodestra appartiene al passato. Lei non pensa? Certo, anche perché questo è un paese come dire, molto invecchiato. Un altro dato interessante dell'indagine è che l'unica fascia d'età che è favorevole ad abbassare il livello delle tasse è quella dei giovani tra i 25 e i 34 anni. Cioè questo è un paese di vecchi, è un paese di vecchi che vivono appunto ormai di Stato, e per i giovani le possibilità sono pochissime. Non a caso secondo me vedremo i giovani più brillanti, quelli che possono lasciare questo paese, e se non si abbassa la tassazione il futuro dell'Italia davvero non può essere positivo. Lupi, è in atto secondo lei nell'elettorato, da quello che vede tra gli italiani, una transizione verso una grande accentuazione della disillusione verso le promesse fiscali, cosa che potrebbe poi favorire una parte politica, una posizione attuale rispetto all'altra? È in atto davvero secondo lei? No, probabilmente no, ma che ci sia un problema di redistribuzione, lo sentono anche i giovani, però la ricchezza prima bisogna produrla, poi si redistribuisce. Però che ci sia un problema anche di scarsi sbocchi per quei giovani che hanno risposto in quel modo, la generazione dei 1.000 euro, non so se l'avete mai sentita, la canzoncina, insomma, un bisogno di Stato come organizzazione sociale, di Stato regolatore, non di Stato che preleva e redistribuisce. Esatto, però che dia qualche sicurezza in più quella generazione ce l'ha, questo problema e questa richiesta, non c'è dubbio. Ho avvertito anche garbatissima ironia, non so se l'avete mai sentita, il professor Lupi è fantastico per quello che mi riguarda. Io ringrazio il professor Lottieri, ringrazio naturalmente Giuseppe Roma, che con una certa dura resilienza, come si suol dire, ci ha spiegato che il Censis ci rivela che noi liberisti, insomma, stiamo perdendo. Vedete le promesse non mantenute del centrodestra? Voi vi occupate delle signorine, a me preoccupa questo, perché alla fine la gente non ci crederà più che per con meno, meno tasse, meno spesa pubblica si cresce. Quelli come me se la prenderanno in saccoccia grazie a questi 16 anni di... vabbè, comunque l'appuntamento lunedì, grazie a Carmelo Raucella in regia che mi sopporta e mi manda in onda, e a Piantanida, grazie al quale oggi anche sono andato in onda, e naturalmente a Alessandro Marco Tulli con cui si danno le trasmissioni. Appuntamento lunedì, linea al giornale radio.